finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere E ci siamo, ci siamo. Sono le 22:58 minuti primi quando va in onda inizio 25 o'clock. Un breve tempo di ritardo fra una frase e l'altra perché stavamo verificando che effettivamente eravamo in onda anche a livello di microfono. Pare che tutto vada bene, fuorché appunto che per chi ascolta i streaming mi ascolterà da un lato della faccenda, non dall'altro lato. Se vuole ascoltarmi dall'altra parte, gira le cuffie oppure metti a mono, insomma. Chi è già all'ascolto invece degli 87.9 della modulazione di frequenza della banda Romanella Laziale, e lì non c'è scelta, la radio è mono orgogliosamente da un secolo. No, un secolo forse è troppo, ma da 43 anni. Quando è nata Radio Onda Rossa manco c'era lo stereo. Poi sono comparsi i famosi giamaicani, quei radioni enormi, quelli di Radio Raim, ricordate? Dove si ascoltava hip hop, reggae. E quelli c'avevano la lancetta, i più grossi avevano l'indicatore della potenza, perché era come portare uno stereo in strada, insomma, una bella storia che si faceva all'epoca, insomma. Non ascoltate la musica a casa, le radio erano di strada, ricordate appunto il film Fa la cosa giusta, dove è da lì che nacquero le radio in vetrina. Radio Onda Rossa è al primo piano, questo non lo può fare, ma spesso e volentieri siamo affacciati alle finestre. E comunque quegli anni là, proprio negli anni 80, era molto facile che ci si fermasse a parlare a Via dei Volsci, proprio dalla finestra del 56, del numero civico 56, con chi passava sotto, alle volte compagne e compagni, alle volte gente del quartiere, che comunque era quasi la stessa cosa. Vabbè, e invece siamo ridotti in questa maniera, così. La finestra di Via dei Volsci ce la sogniamo. Comunque, quello che conta è che siete all'ascolto degli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, il sito della radio, da lì potete ascoltare la radio in streaming. In streaming, a parte i colpi di tosse. E da lì potete trovare una paginetta, andate su Sostieni, troverete le modalità per sottoscrivere per questa emittente che dal 1977 appunto trasmette grazie al vostro contributo, al vostro ausilio, al vostro appoggio, e non ha mai fatto pubblicità, non è stata mai voce di partiti o partitini politici. Una radio autogestita e autofinanziata grazie appunto ai compagni e alle compagne che la sostengono, e agli ascoltatori e agli ascoltatori che sottoscrivono e provvedono appunto al sostentamento della stessa. 61 80 40 01 è appunto il numero del conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56, come dicevamo una volta. Invece non è così, da intestare la cooperativa culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00 185 Roma San Lollo. Onda Rossa, @ondarossa.info, la casella di posta elettronica per le vostre comunicazioni, i social, benché a molti di noi un poco avversi, sono attivi ed è lì potete comunicare con la radio. 25 o'clock, @ondarossa.info, la mail della voce e dello spazio che state ascoltando. 0649 1750, recapito telefonico, ma potete trillare, ma non ce ne accorgeremo. Non abbiamo remotizzato il trillo. Stasera musica indipendente e mano a mano che dipaneremo le tracce che andremo ad ascoltare, cercheremo di capire di che cosa stiamo parlando in realtà quando diciamo musica indipendente. Cominciamo a chiedere come mai ci siamo imbarcati in questa faccenda della musica indipendente. Ma in insomma, è una roba che è venuta qualche giorno fa, così. E non potevamo che cominciare quindi con la band che della indie music è stata un po' il portabandiera, forse i capostipiti, dai, i capostipiti. I've dreamt of this, but it never comes, but it never. E cioè dai Pavement, che vengono da Stockton, California. The Nature's Dry, di cui stiamo ascoltando il primo lavoro. Del 1992, Slanted and Enchanted. Slanted and Enchanted, in cui nella formazione appunto originaria dei Pavement, dove ci stavano Stephen Malkmus, Scott Cannenberg, Mark Ebold, Steven West, Bob Nastavonovic alle percussioni e Gary Young. Ma è proprio questo che è fuorviante, cioè non vogliamo parlare di indie music, ma di musica indipendente, e cioè di un suono che probabilmente è molto più antico, un suono normalmente abbastanza sporco, è abbastanza indefinibile, quasi a dire appunto che non ci deve essere necessariamente un'ispirazione, un sentiero, una traccia da seguire. Non vorremmo anticipare troppo quelle che vorremmo essere le conclusioni, però appunto essere indipendenti in musica è più uno stato della mente. E lo faremo appunto ascoltando varie tracce antiche e recenti. Ora recente. I am an OTA giant, I am an OTA giant, I am an OTA giant, I'm nothing. Republican or a Democrat, a liberal fascist full of crap, I'm nothing. I'm nothing. Somebody somewhere saying there's something, but everybody everywhere knows that I'm nothing. Politics and dirty tricks, I got no time for stones and sticks. Politics and dirty tricks, I got no time for chasing chicks. I'm nothing. I'm nothing. Somebody somewhere saying there's something, but everybody everywhere saying I'm nothing. There's nothing high, there's nothing low. Just being a nothingness is all flow. Are you gay, are you straight? Do you believe in love or do you believe in hate? I'm nothing, I'm nothing. Somebody somewhere saying there's something, but to everybody everywhere I'm saying I'm nothing. I'm nothing. Your reality, it's not real to me. What's your anomaly? It is my destiny. I'm nothing now, And I'm nothing free, 'cause being nothing is just being me. Parliamo di suoni indipendenti, di musica indipendente. But it's still a free ride. I am on a free ride. Senza sapere in realtà bene dove vogliamo andare a fare. Your bride. Però funzionando così, non tanto sul ragionamento, sul raziocinio, sulla mettere una pressa accanto all'altro i pensieri cercando di concatenarli, bensì lavorando un po' a pelle e pensando a chi appunto è rimasto, è stato, è... ci teneva ad essere indipendente, indipendente probabilmente dallo stesso pubblico, dalle case discografiche, dagli stili, dalle mode del periodo. Non poteva essere che il trio di Milwaukee, Brian Ricci, Victor De Lorenzo, Gordon Gallon, ultimo loro lavoro questo, Hotel Last Resort 2019, da cui abbiamo ascoltato I Am Nothing con Stefan Janoski. I would have flown in if I could have fly, but I'm just blown by the winds of my free ride. E questo è The Free Ride, lo ha detto Gordon Gano stesso. E noi vi ricordiamo La Scarcerata, uscita ormai da un paio di mesi. Ve la potete accattare a Radio Onda Rossa, ve la potete accattare in giro, ma in giro è poca roba. Dottore Bibbia, comunque ci saremo il 31 dicembre. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Una puoi comprarla, una regalarla. Per ogni Scarceranda fatta si spacca una sbarra. Con Salvo nel cuore, ma oggi tocca supportarla. L'agenda che dà gli incubi ad ogni agente di guardia. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Scarceranda 2021, l'agenda contro ogni tipo di carcere. Per ogni copia acquistata una verrà regalata a una persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info. Mustang Sally, take one. Allora, se pian piano riusciamo a costruire l'idea della indipendenza, per quanto riguarda la vicenda Fugazi, il vocabolo che loro stesso dire più si addice alla loro storia, al loro modo di suonare, il do it yourself, ovviamente, che forse è lo step successivo dell'essere indipendenti. Cioè, indipendenza significa decidere cosa fare, come farlo, a chi farlo fare. Do it yourself invece significa proprio farsene da soli le cose. I concetti tutto sommato non sono così distanti l'un dall'altro. Ma soprattutto, come ci interessa, come questo modo di approcciare all'organizzazione della band e del suo si rifletta proprio nel suonare, si rifletta proprio nel suono stesso. Ed è per questo che appunto nel 89 High Pavement e poi via discorrendo un sacco di altre band, di cui 25 O'Clock è stata per 25 O'Clock Next Time in prima battute, poi 25 O'Clock a partire dagli anni 2000, sono state, come dire, contenitori di molta musica indipendente. E di come appunto questi suoni poi li abbiamo ascoltati insieme in tutti questi anni. Quindi lasciamo i nostri Ian McKay, Guy Picciotto, John Lely e Brendan Canty dal loro primissimo lavoro, tant'è vero che non uscì all'epoca, si chiama First Demo perché appunto era un demo, poi uscì Thirty Song. How does it feel to have blue 2020. Rain, la traccia che abbiamo ascoltato da Ultramono. Ultimo lavoro degli Idols e sembrerebbe quindi che il tema che stiamo dipanando durante questa chiacchierata notturna a Radio Onda Rossa prenda i contorni di suoni ben definiti, quasi una linea comunque di coerenza, ma mai così è successo a 25 o'clock. Amiamo il caos, amiamo ricordare che la natura non è altro che caos ed è il nostro, la nostra mente, il nostro pensiero che cerca e che prova e che vuole mettere ordine a questo caos. Per cui sembrerebbe che quando parliamo di musica indipendente stiamo parlando della grossa famiglia del post-punk, insomma. Ma così non è, e pian pianino, andando avanti con la scaletta, andremo a definire meglio quello che non andremo a dire perché non ci riusciremo comunque, ma andremo ad ascoltare. Nel frattempo invece da Brutalism del 2017, questa è Mother, ormai famosissima, conosciutissima, gli Idols di Joe Talbot. Sexual violence doesn't start and end with rape. It starts in our books and behind our school gates. Men are scared, women will laugh in their face. Whereas women are scared, it's their lives never take. che di soli 2 minuti le tracce per Fuck It Up, il collettivo di Toronto, che ci piace mettere nel cappello delle band della musica indipendente, così almeno ci viene da pensare anche in base ai luoghi dove vanno a suonare Fuck It Up. Molto simili alle band del nostro underground, che però hanno avuto una grande risonanza a livello mondiale. E insomma, un discreto successo commerciale. Fuck It Up. Mi emoziona sempre ascoltare questi suoni. E adesso passiamo invece a quanto ci ha proposto il fantasma la scorsa puntata, così irrompendo attraverso la messaggistica. Durante 25 o'clock stiamo parlando di Elder, tanto per dire che cambiamo un po' di registro. The Gold Silver Session. All'ascolto di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, 16 dicembre 2020. Elder, The Gold and Silver Session. abbiamo parlato a Vanvera, dicevamo, si tratta di un intero EP, The Gold and Silver Session, per quanto riguarda la band di Boston. Ricordate chi era di Boston, che comunque si muoveva su suoni probabilmente un po' più pesanti ma altrettanto elaborati. Gli Isis ormai sciolti da un po' di tempo. Dicevamo, pregiata scelta per quanto riguarda il fantasma che si sta fregando le mani nel desiderio di poter, abbiamo almeno motivo di pensare, nel ritornare a fare le sue proposte musicali nello spazio di 25 O'Clock. Per ora, diciamo, per interposta persona, non manca di dare il suo contributo a 25 O'Clock. E vedete come quello che sembrava delineato come un tipo di suono in realtà non racchiude quella che è la nostra idea che ci siamo fatti della musica indipendente, del modo di suonare, degli stili e anche dell'interesse che si ha nel seguire e nel cercare il suono giusto per piacere in qualche maniera, almeno a qualcuno, nel restare, insomma, indipendenti. Se probabilmente questa potrebbe essere un'idea del fantasma, a noi il suono che invece forse più di tutti ci dà l'idea di una band che continua a suonare veramente nei decenni, dagli anni 80, dalla metà degli anni 80, la sua musica, la loro musica. Questi non possono essere che Dinosaur Junior, e lo dicevo poc'anzi, insomma, suoni e band e musicisti che hanno accompagnato veramente decenni di nostre proposte nelle varie trasmissioni. Eravamo pischelli e sbarbatelli, come dire. Quando ascoltavamo Dinosaur Junior è uscito da non molto una raccolta per quanto riguarda Dinosaur Junior. Raccolta lo rimandiamo da capo, dai, non vi preoccupate, un raccolta che va appunto dal 1986, se non andiamo errati, fino al 2019 o 18, giù di lì. Per quanto riguarda Dinosaur Junior, una raccolta che, indovinate come si chiama? Best of Dinosaur Junior. La cui intro è curata niente di meno che da Harry Rollins, quindi da capo in una versione veramente così poco conosciuta per quanto riguarda i Dinosaur Junior, che nascono comunque dal punk hardcore. Questa roba è del 1988, se non andiamo errati, si chiama Chunks, e questi sono i Dinosaur Junior da capo. We'll be right back. Questi sono i suoni più consueti per quanto riguarda i Dinosaurs. Dinosaurs che proprio inizio carriera nel 1983 appresero che esisteva un'altra band che si chiamava proprio Dinosaurs e perciò presero il nome anche ironicamente di Dinosaur Junior. Quindi la band di Joseph Donald Meschis, Lou Barlow e Marf alla batteria. Dalla metà degli anni 80 fino ai giorni nostri, sempre restati nell'underground senza dover per forza approdare a suoni fin troppo curati, molto più interessante era per loro creare un muro di suono che andare a cercare raffinatezze che però invece sono ben visibili sia nella loro attività degli ultimi anni, in cui hanno curato di molto il suono, ma l'estetica del suono, perché poi in realtà il muro è rimasto tale e quale, le sonorità sono quelle, una grande coerenza e che forse va a discapito un po' della varietà. Però appunto, se si entra nel mondo Dinosaur Junior poi non se ne esce più. Radio Onda Rossa 25 o'clock, forse questo ci darà ragione il conduttore fantasma di cui parlavamo poc'anzi. Forse sì, c'è una band indipendente che lui metterebbe al primo posto in questo, nel senso che pian piano stiamo cercando di stabilire in questa puntata, si tratta proprio di loro. I'm accorti che non abbiamo parlato, non avevamo alzato il cursore del microfono. Dicevamo, abbiamo parlato adesso parecchio e è anche difficile un po' replicare, dicevamo sì, che più indipendente degli Oakwind è difficile trovarli. Tracce dal loro disco del 1972, Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. One Change, Lord of Light, Urban Guerrilla, ce ne sarebbe bisogno. Urban Guerrilla che stiamo ascoltando sotto la nostra voce, un'influenza importantissima per quanto riguarda il punk e il metal, in un periodo in cui andavano per la maggiore i fricchettoni, eppure già si sentivano le prime attitudini di quello che poi sarebbe stato il punk britannico, in particolar modo quello meno cupo, più aperto ed essenziale, se volete. Oakwind, quindi, avremmo potuto mettere insieme a loro nel novero di quello che è la musica indipendente Motor City 5, ma Motor City 5, al di là di un disco che hanno fatto abbastanza recentemente, 5, 6, 7 anni fa, adesso non ricordiamo esattamente, comunque nella decade che sta concludendosi il 31 dicembre. Diciamo, a parte quello, insomma, sono relegati alla fine degli anni 60. Quindi invece dal 1969 imperversano, ancora ci sono, producono. Chi più di loro può essere indipendente? Forse più, ma sullo stesso piano, questa roba che ci apprestiamo ad ascoltare dopo gli Oakwind. 25 o'clock, Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, 6180-4001, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. 00185, Via dei Volsci 56, Roma, San Lollo. Ecco forse chi potrebbe avere la stessa attitudine del lavorare nell'underground, di non calcare mai le scene master, le scene commerciali. Wondering what the crop will yield. For the mothership has come, for the mothership has come. Who's she gonna take this time? Right now, tell me who she's gonna claim. Loving is the face of Jesus, smiling is the Mona Lisa. To penetrate the diamond, the pituitary gland gets torn on its axis and frees. Earth is a canon of love, shame beyond Socrates. Who's to blame but the man like any man? Who's to blame but the man who leads? Going upwards at 45 degrees. Going upwards at 45 degrees. Going upwards at 45 degrees. Won't somebody somehow release? Going upwards at 45 degrees. Going upwards at 45 degrees. Going upwards at 45 degrees. Won't somebody somehow release? Bye, bye, bye. When people jump through time, they give themselves up to rhyme and reasons of the heavens. They're recognizing themselves, reconciling their thoughts to those of dutiful people. They're unashamed. Going upwards at 45 degrees. Going upwards at 45 degrees. Going upwards at 45 degrees. Won't somebody sign my release? Going upwards at 45 degrees. Going upwards at 45 degrees. Going upwards at 45 degrees. Will somebody summer release? Ba ba ba. Ba ba ba. una produzione sterminata per Mr. Julian Cope dal 1984 fino all'ultimissimo nel 2020. Self Civic War. E crediamo che abbia attinenza con quel presente, con quella realtà che noi invece a 25 o'clock chiusi in un guscio di lumaca non vogliamo vedere né sentire. Quando parte l'avviso di disconnessione, almeno Urban Guerriglia, però quindi di sol di nuovo. Riparte da sola, che dobbiamo fare? Ed eccolo di nuovo Julian Cope, quindi dopo A Porta a 45 Degrees questo è Necropolis, sempre da Joshua Kill, 1992, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Dicevamo prima, citavamo prima gli MC5, gli altri nonni della musica indipendente, coloro che cercarono di costruire innanzitutto delle etichette musicali proprie, degli studi di registrazione, una scena, un progetto che fosse al di fuori. E non a caso insieme a agli MC5 dovevano suonare

potrebbe anche solamente bastare la voce di Grace Lick. Fare la sinossi non tanto dell'indipendenza ma del desiderio di indipendenza. Da Volunteers quindi escono Blue Day 1969, Jefferson Airplane. Passano gli anni, ne passano tanti. Una delle ultime uscite per loro, non sappiamo, probabilmente ce ne saranno altre. Stiamo parlando del 2011, se non andiamo errati. Un'altra band di culto che è stata e ha fatto un po' come voleva e come poteva. E forse questo in qualche misura è un sinonimo di indipendenza. La nostra sigla iniziale è loro, Sonic Youth, tratto dalla colonna sonora di Simon Werner di Sparau. Alice e Simon. diverse, Alice e Clara. Colonna sonora del film Simon Wan e Disparu. Sonic Youth. E come dicevamo, questa è una specie di dipendenza, quella che ci attanaglia. Ci serve anche per dire che un altro pezzo di scena indipendente è proprio quella di Palm Desert, che gira intorno all'eredità dei Caius, e a somma di questa eredità non facciamo bene ad ascoltare l'ultimo lavoro di Desert Session, questo collettivo così che si periodicamente si rincontra. If You Run, Desert Session with Libby Grace, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Hey now, everybody crowd round, something you should know. Fast break, always a mistake when you got nowhere to go. You can lie for the honey, lie for the wealth. You can lie to each other, but you better never lie to yourself. No sign of any second mind, what she had she gave. Red hand with another man, there's no one here to save. She started out like most of them, heart full of dreams, a head full of nothing. If you run, you better have a place to go. If you run, on her charms, deep scars fading in the stars, fading in each other's arms. He took her down to his hiding place, always bringing back his dust on his face. Stone throw, tapping at the window, fools with no plans. Slow wine, broken by design, any good for beat goddamn. You think you left it all behind, and you're choking on the weeds, you're strung out on the vine. Thank you. oltre 14 minuti di Anthem for No State 2017, Luciferan Tower. Questa era l'uscita dei Goodspeed You Black Emperor. E anche ascoltando la loro musica e avendo avuto la fortuna, non tanto quella di Goodspeed You Black Emperor, ma quella di Silvermont Zion, o Zion come preferite, una loro costola comunque anche dal punto di vista delle sonorità e quindi di tutto il collettivo che gira intorno all'etichetta della Constellation Record in quel di Montreal in Canada, si ha l'impressione di non solo di una indipendenza di vedute riguardo il mondo, la musica, il modo di suonare, ma anche una tranquillità dei rapporti con le persone, così lontana poi in realtà dal music business. Ci mancava che si mettevano a smontare il palco, insomma, per capire qual è il tipo di atteggiamento da parte di questi musicisti e di quello che pian piano si delinea come la nostra idea personale di indipendenza. Sono in carcere da quasi 4 anni. Sono una signora di più di 50 anni e sono 2 anni che ricevo la vostra agenda e il quaderno. Mi sono molto utili sia per appuntarmi le note, sia per leggere lettere che vi mandano e le ricette che qualche volta ho fatto. Il mangiare fa letteralmente schifo, l'unica cosa che funziona era la sanità, ma adesso non più. Pensate che per andare dal dentista passano mesi e se tu hai mal di denti ti danno tachipirina o brufen, altrimenti aspetti quando ti chiama il medico per farti dare l'antibiotico. Per qualsiasi dolore solo brufen e tachipirina, tachipirina e brufen. Per le fisioterapie non se ne parla. Io sono in lista da maggio e fino ad oggi non sono ancora stata chiamata. Qui puoi morire tranquillamente in grazia di Dio. Siamo super affollati, c'è un nido con 4 mamme e 4 bambini ai 3 mesi e 2 anni e un educatore non si vede mai nonostante le richieste fatte dalle detenute. Abbiamo un magistrato che da quando sono qui l'ha provvisto 2 volte, senza parlare del direttore. Nelle carceri il Covid ha aggravato una situazione già pessima. Nel silenzio generale i colloqui sono bloccati e chi è imprigionato o imprigionata ha ancora meno contatti con l'esterno. Lo Stato ha reagito alle proteste dei reclusi solo con la repressione, facendo 11 morti. L'unica sicurezza è la libertà. Il 31 dicembre andiamo fuori Re Bibbia. Dalle 10.30 all'angolo tra via Bartolo Longo e via Maglietti, presidio, lenticchiata e musica per superare le sbarre e scambiare un saluto con le donne recluse. Ciao, Salvo. Pocket full of promises, baby empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich are lobby for, using me for votes. Pretend that me is sorry for them winning, it's a joke. You seek a trick or treaters in costume disguised as leaders. Charismatic public speakers, false prophet and fake healers. Articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and policies, born apologies. Trying to ask please, when I squeeze on your upon your knees. Justice or else, as the minister Farrakhan. So I'm stand up a yard and oath with my glass up in my hand. If I take it literally, fuck you, geez, I'm kinda sorry. But somebody need to answer what them really do to pressy. Give me the microphone, I'm meant to rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much poker piled up, get the thing them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. Cause our bombs, them metaphoric. Need to use them metaphoric. Bombs, them metaphoric. Metaphoric, please, please, please use them metaphoric. Bums, bums, them metaphoric, please, please, please use them metaphoric. These are the days of the last years. From the last page of the book of the dark age. We are part ways with the oppressor, seek predecessor. We have got ancestors and we team up together. We will meet, we will meet on the battleground. Tread the microphone for a shakti and the papa sound. Just be ready when the gavel sound, but not fully grown us. Just around us so we never nervous. What's a mental one out, this shit turned physical. From long time scars we are reaped the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't give us soul, cause them sights so we spiritual. Sights so we spiritual, so they be like, hey, prod the full under sights so subliminal. Get them mad, then chastise them as criminal. If we drugs and that guy say it clinical. Cause our bombs them better for it. We get the youth them better for it. Bums, them metaphoric. We get the youth, them metaphoric. Bums, them metaphoric. We get the youth, them metaphoric. Bums, them metaphoric. We get the youth, them metaphoric. Ladies, muovia! Nella galera l'unica stella che si vede è carabiniera. Nella galera l'unica luce che filtra il muro è buio, non è luce vera. Nella galera anche se fuori c'è il sole ti svegli sempre con la luna nera. Nella galera aspetti il giorno, aspetti e aspetti, ma è sempre sera. Odio la galera, con tutta la rabbia che stringo tra i denti. E sono libera ma sono prigioniera. Se i carcerieri sono i veri delinquenti. Odio la galera, odio la galera. Odio chi scrive le leggi con i guanti. E sono libera ma sono prigioniera di chi parla di pene riqualificanti. Odio la galera, io odio la galera, io odio, odio, odio. Odio la galera, odio la galera, odio la galera. Odio la galera, io odio la galera, io odio, odio, odio. Odio la galera, odio la galera, odio la galera. Shy ladies, representing and supporting, con salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì. Grandi Asian Ladies, odio la galera. E chiediamo perché la nostra idea di indipendenza non si ferma senz'altro alle sonorità che provengono dal rock and roll, Chiavery Corporation, anche loro. A fronte di un grande successo commerciale hanno mantenuto sempre uno stile e un portamento sempre vicini ai movimenti sociali. Questa è la loro collaborazione con Rachel Jones dalla Giamaica. da cui abbiamo ascoltato Letter to the Editor e poi Roadblock sotto la nostra voce. Calendario scarcerando di Radio Onda Rossa, un modo per sostenere e mantenere in vita la nostra, la vostra emittente, la radio vicina ai movimenti, la radio di movimento, che il 31 dicembre sotto Rebibbia, come ogni anno, vi dà appuntamento per il 31 dicembre fuori dal carcere. Un appuntamento ancora più importante in un anno in cui le condizioni di vita per chi sta dentro sono sempre più dure, con un numero di contagi sempre più alto, in isolamento con l'esterno sempre maggiore. E ricordiamo quanto è accaduto proprio in seguito alle rivolte nel carcere di Modena e i morti che non si toccano, suicidati. Ci vediamo all'angolo tra via Bartolo Longo e via Raffaele Maglietti, dove ci sarà il consueto presidio, la rinticchiata provviziatoria, le scarcerande 2021 e il calendario di Radio Onda Rossa. Ci sposteremo poi al pratone femminile in modo da poter fare un saluto a chi è reclusa e gridare che l'unica sicurezza è la libertà. Programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce con 25 O'Clock, che si è allungata all'esasperazione, la 1:20, ma vi lasciamo perché benché da remoto comunque occorre la mattina guadagnarsi la stozza, come amiamo dire. Quindi vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, con le sue programmazioni musicali, le sue repliche. Si riprende domani mattina o stamattina alle 8 con la rassegna stampa, lettura prime pagine dei giornali, rassegna stampa vera e propria, rassegna stampa cittadina, i redazionali alle 10. Si riprende alle 14 con tutta scena cinema, Attica Blues, tre Black Music alle 16, le schiene del sole alle 17, alle 18 il Mezzetes, i redazionali del pomeriggio di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa. La trasmissione sui libri della radio alle 20 e alle 23, Cuginetti di Apostasia. Il nostro saluto più importante per ora ve lo diamo in diretta, speriamo di poterlo dare. Zone rosse, regolamenti permettendo il 31 sotto Rebibbia. Per ora abbracciamo tutti e tutte coloro che sono costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, decreti amministrativi che ci e vi costringono a vivere limitatamente la vostra libertà e la nostra libertà. A chi è recluso anche nei centri di detenzione per migranti, Comunque sì, The Great Reset, a me mi sembra che tutto è peggiorato e nulla di brutto. Di quanto di brutto c'era prima di dello scorso marzo, è restato lì dove era, i vecchi vizi. Le vecchie ipocrisie. Il facile guadagno. Hear the command, make we sound the alarm. Then we overturn and overthrow, uproot Babylon and kick them out of doubt. L'oppressione di chi ha nei confronti di chi non ha. Vabbè, dai, bella così, la facciamo finita. L'1:23, restate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Bella a tutti e a tutte. Ci sentiamo, credo, sì, con buona probabilità mercoledì prossimo. Dai, e bella a tutti e a tutte. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. moon.